È con noi Paolo Orlandelli, regista dello spettacolo Strage in Vaticano, in scena dal 2 al 6 maggio al Teatro di Documenti a Roma. Paolo, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, grazie Federico. Tutto parte da un testo di Fabio Croce. Ci racconti un po'? Sì, 10 anni fa, nel 2008, in occasione del decennale di questo evento delittuoso che avvenne in Vaticano il 4 maggio del 98, Fabio Croce, che si era interessato al caso perché aveva pubblicato il libro di un tipo che aveva conosciuto una delle vittime, mi chiese di realizzare uno spettacolo su questo tema. Mi fornì tutto il materiale e elaborammo un'idea che era quella di far raccontare la storia alle tre vittime. Ovviamente la storia poi si compone di moltissimi personaggi e anche di tanti documenti ufficiali che vengono anche letti al leggio, c'è anche, non so, i bollettini stampa di Navarro Valls, ci sono le perizie, ci sono le ricostruzioni da parte degli avvocati e della famiglia del vice caporale che è stato accusato di omicidio-suicidio. Quindi una sorta di docu-spettacolo, di docu-teatro. E andò abbastanza bene 10 anni fa, che speriamo anche questa volta, ma la novità quest'anno è che abbiamo fatto insieme allo spettacolo una petizione a Papa Francesco per riaprire il caso, perché la famiglia del vice caporale che era stato accusato di omicidio-suicidio ha fatto fare un'autopsia sul corpo del figlio ed è risultato uno scenario completamente diverso da quello tratteggiato dalla Santa Sede, dalla magistratura vaticana, ma la magistratura vaticana ha respinto la richiesta di ricorso della famiglia del vice caporale e quindi non ha accolto queste prove e ha archiviato il caso come omicidio-suicidio. Ricordo che è stato ucciso il giorno stesso in cui è stato nominato comandante il tenente colonnello Esterman, la moglie, e questo giovane soldato che è stato colto da un raptus di follia, secondo il Vaticano, oppure è stato aggredito e ucciso per essere utilizzato come capro espiatorio. Questa è la tesi invece della sua famiglia. Sì. Ci spieghi anche un po' come ha funzionato la messa in scena rispetto a tutto il materiale documentale? Allora, in sostanza abbiamo seguito un po' la cronologia, facendola raccontare a quei personaggi che hanno espresso dei comunicati o hanno fatto interviste. Abbiamo seguito proprio l'iter che ha seguito questa pratica, cioè dalla data della strage a quella dell'archiviazione. E quindi, ripeto, ci sono questi bollettini della Santa Sede, ci sta tutto un corpo di informazioni anche che serve a spiegare un po' quali sono gli scenari nel Vaticano a livello di poteri che si contendono la supremazia, l'Opus Dei, le logge massoniche, e poi c'è anche un po' un apparato biografico che riguarda le vittime e quindi i loro legami con questi poteri forti. E poi c'è tutta la ricostruzione che viene fatta appunto dai legali della famiglia del vice caporale e che devo dire risultano molto attendibili queste prove che loro hanno raccolto che servirebbero a scagionare il vice caporale. Infatti la petizione chiede la riapertura del caso e non tanto di individuare i veri colpevoli, che dopo 20 anni sarebbe veramente impensabile, ma di scagionare, di discolpare, di dichiarare innocente questo ragazzo che è morto a 23 anni in Vaticano, un mese prima di congedarsi dopo 3 anni di servizio militare, mentre era lì a difendere il Papa, perché la Guardia Svizzera è l'esercito del Papa. E oltre a perdere la vita, ha perso anche la sua dignità, il suo onore, perché è stato indicato come un omicida-suicida, un ragazzo che stava benissimo, che il giorno stesso aveva sentito la madre, come tutti i giorni, gli amici dicono che era tranquillo, era desideroso di tornare alla sua vita in Svizzera, aveva già un ottimo lavoro perché chi fa la guardia svizzera in Vaticano poi in Svizzera trova lavoro molto facilmente. E tutto l'apparato di prove che portano questi legali a discolpa del ragazzo sono impressionanti, infatti è veramente sconcertante che non sia stato accolto il ricorso, ma allora evidentemente si voleva così, che non si cercassero i veri responsabili. A distanza di 20 anni speriamo che ci sia un atteggiamento di maggiore apertura. Adesso non mi dilungo troppo sulle prove che vengono portate a conoscenza del pubblico, dei lettori, leggessero queste storie nella letteratura che è stata prodotta in questi anni, ma è veramente appassionante ma anche sconcertante. Se pensi per esempio anche al caso di Manuela Orlandi, una persona che sparisce e veramente il Vaticano ha offerto anche in quel caso una collaborazione molto scarsa e quindi vorremmo bucare un po' questa cortina di silenzio, questa impenetrabilità. Io spero che Papa Francesco, che mi sembra una persona molto buona, molto sensibile, possa prendere su di sé questa responsabilità di dare finalmente giustizia a questo ragazzo e alla sua famiglia che già hanno vissuto una tragedia, ma in più devono anche sopportare quest'onta, no? Di Sì. essere Ecco, responsabili di un duplice delitto e del suicidio, proprio suicidio. proprio a questo proposito ti chiedo qual è la ricostruzione di Fabio Croce in base a tutti gli elementi. Beh, in sostanza lui ha raccontato tutta la storia e queste tesi, insomma, diciamo che riguardano il braccio di ferro che c'è sempre stato tra Opus Dei e Massoneria da quando anche Giovanni Paolo II, da quando c'è stato il crack dello Iore Ambrosiano che si è salvato grazie a questi soldi portati dall'Opus Dei. E non dimentichiamo che Giovanni Paolo I è morto in circostanze misteriose prima che cercasse di debellare la massoneria in Vaticano. Giovanni Paolo II ha subito un attentato quando stava per conferire all'Opus Dei lo status di prelatura personale, ma i soldi dell'Opus Dei sono serviti non solo a risolvere il problema economico dello IOR, ma anche a finanziare il sindacato Solidarnosc e quindi a contribuire alla liberazione della Polonia. Quindi Giovanni Paolo II era molto compromesso con l'Opus Dei e pare che Esterman fosse un opusiano, un filoopusiano, così come anche la moglie. La carica di comandante delle guardie svizzere è stata vacante da novembre fino a maggio perché c'è stato probabilmente questo braccio di ferro. E il giorno in cui è stato nominato comandante questo Esterman, la sera è stato ucciso. Poi passiamo al discorso, come ti ho detto, le biografie di questi personaggi e infine alla ricostruzione che fanno gli avvocati della famiglia del vice caporale, che sono molto interessanti, fanno delle considerazioni che sono molto oggettive. A parte che tutta la ricostruzione anche della dinamica da parte della magistratura vaticana non convince per la posizione di ritrovamento del corpo, dell'arma che ha sparato, nessuno ha sentito i colpi di pistola, neanche la vicina di casa che ha trovato i corpi nel sangue e neanche un amico di Esterman che era al telefono con lui per fargli i complimenti mentre lui veniva ucciso, neanche questi hanno sentito i colpi d'arma da fuoco. Il foro di uscita del proiettile nel cranio di Tornè è più piccolo di quelli che lui aveva in dotazione. Non è stata restituita la divisa con la quale probabilmente lui è stato ucciso. Lui aveva anche una frattura al cranio, aveva i denti incisivi spaccati perché probabilmente gli hanno infilato la canna della pistola a forza nella bocca e probabilmente lo avevano aggredito. Perché lui era di guardia sotto al palazzo, lo hanno tramortito, gli hanno rotto la testa, l'hanno portato su, gli hanno sparato in bocca. Insomma, sono cose comunque che sono circostanziate, che sono molto attendibili. Poi è stata ritrovata una lettera d'addio che lui avrebbe scritto, ma anche l'esame grafologico su questa lettera la dichiara falsa. E, insomma, un bel papocchio che merita di essere chiarito assolutamente anche nelle sedi deputate, come può essere il Tribunale lì dello Stato della Città del Vaticano. Però ecco, io quello che vedo è che queste ingiustizie non vanno mai nel dimenticatoio, cioè quando c'è un'ingiustizia e anche la società civile ne viene a conoscenza, si crea un senso di indignazione che pretende che vengano presi provvedimenti intorno a questi casi, che venga fatta luce e venga fatta giustizia, non importa se sono passati 10 o 20 anni. In un'intervista la madre ha dichiarato: io cercherò sempre la verità anche dovessi metterci 30 anni. Ecco, noi speriamo di scalare qualche anno da questa previsione e Speriamo che ci seguano in tanti con lo spettacolo, ma anche solo con la petizione che si trova su change.org e si chiama Papa Francesco, Verità sulla strage in Vaticano. Paolo, lo spettacolo nel corso degli anni rispetto alla prima versione vede attori e attrici diversi. Sì, sono tutti e tre diversi per ragioni svariate. Intanto quello che faceva il ragazzo adesso ha 10 anni di più. E quindi lui stesso si è tirato fuori. L'attrice invece aveva altri impegni e purtroppo l'interprete di Esterman, Julio Solinas, è mancato nel 2010 a 49 anni per un infarto e quindi anche qui abbiamo dovuto sostituirlo, però Giuseppe Alagna è un attore con il quale collaboro spesso e volentieri e che è anche produttore dello spettacolo insieme al Teatro dei Documenti, a Teatro di Nina e a me stesso, che ovviamente metto le mie stesse forze in campo perché queste non sono operazioni commerciali e redditizie, quindi le facciamo solo perché ci crediamo. Paolo, in chiusura ricordiamo allora l'appuntamento dal 2 al 6 maggio al Teatro di Documenti a Roma con Strage in Vaticano di Fabio Croce per la regia di Paolo Orlandelli. Un abbraccio, Paolo, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Federico, ciao, a Ciao. presto.